Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette, dieci minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, puntata in cui, come sempre, venerdì avremo anche la poco invidiabile classifica, oggi con un primo posto un po' a sorpresa, un po' atipico rispetto alla nostra classifica sullo spreco di denaro pubblico. Comunque, gli altri temi, da un lato l'Istat, che oggi è uscita con un insieme di dati sul commercio e anche sulle vendite al dettaglio, e ne parleremo in apertura, ma l'altro riguarda invece la Germania. Perché dico la Germania? Perché qui non c'entra il coronavirus, che comunque su cui tutti sono ancora molto preoccupati sugli effetti, ma la produzione industriale tedesca a dicembre è crollata. Meno 3,5% rispetto a novembre e meno 6,8%, cioè quasi 7% in meno rispetto a dicembre del 2018, soprattutto per il settore delle costruzioni, in calo dell'8,7%. Tra l'altro in Germania anche l'export ha frenato, nel senso che l'anno scorso è cresciuto solo dello 0,8%. Non è, come spesso ripetiamo, una buona notizia per l'Italia. Non possiamo dire mal comune mezzo gaudio, perché noi siamo i primi fornitori nella meccanica della Germania, e quindi quando la Germania frena nella produzione industriale, purtroppo le ricadute ci sono anche per le nostre imprese. Faccio notare che il governo Merkel non mi sembra abbia lanciato il piano che alcuni prevedevano di investimenti infrastrutturali, o comunque, se il piano è ancora allo studio, non ha avuto effetto, visto che proprio le costruzioni sono il dato più brutto, quasi il 9%. Forse con l'avanzo di bilancio che ha la Germania e col deficit sotto zero, converrebbe anche la Germania spendere un po' qualche euro pubblico in più rispetto a quello che sta facendo. Comunque questo è il dato sulla Germania, che ripeto non è una buona notizia per nessuno, quindi non c'è da esultare. Per quello che riguarda invece il dato sull'export, sì, c'è un calo dello 0,8, anche se ha toccato un nuovo record a livello nominale, quindi a valore 1.327 miliardi di euro di merce esportata, ripeto pur frenando. La parte che analizzeremo dopo riguarda anche invece il commercio italiano, e quindi non solo lo scenario europeo, perché il valore delle vendite al dettaglio nel 2019 è cresciuto dello 0,8%, che non è un dato brutto, nel senso che l'anno prima era cresciuto dello 0,1%. È distribuito in maniera disomogenea, nel senso che cresce soprattutto la grande distribuzione, più 1,4%, mentre per il terzo anno consecutivo sono in flessione i piccoli negozi, meno 0,7%, e continua il boom enorme del commercio elettronico, più 18,4%. A dicembre le vendite al dettaglio tornano a crescere su base mensile, aumentano dello 0,5%. Per quello che riguarda l'alimentare, però a dicembre è stato un mese di crescita zero rispetto a novembre. Confcommercio denuncia i piccoli negozi in profonda crisi, grazie anche all'impatto del Black Friday sulla prima parte di dicembre. Ecco perché io ritengo che tutta la polemica fatta sostanzialmente le chiusure domenicali non tenga conto del boom che continua nel commercio al dettaglio, nel commercio online, scusatemi, per cui che bypassa completamente ogni logica di chiusure domenicali o quante domeniche puoi stare aperto o chiuso. Comunque ne parleremo più avanti nella seconda ora del programma. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Partiamo come sempre dalla borsa per quello che riguarda chiaramente le borse in primo luogo europee. Oggi invece si va a chiudere la settimana con qualche realizzo, meno 0,60% Francoforte, meno 0,35% Parigi, meno 0,060% Londra, Dow Jones meno 0,70%, Milano fa meglio, nel senso che perde lo 0,10%, grazie di nuovo ai bancari, Mediobanca più 2,60%, Banco BPM più 2,20%, UBI più 1%, Finecobank più 3,60%, poi Leonardo, l'ex Finmeccanica, più 3%, Poste più 1%. Il fronte opposto invece vede andare male Case New Holland, meno 4,70%, e male anche Fiat Chrysler, meno 1,70%. C'è stato l'allarme anche lanciato dalla Fiat sugli impatti che potrebbe avere il, che sta già avendo il coronavirus. Perché lo dico? Perché Fiat non solo ha chiesto a tutti i dipendenti di posticipare e riprogrammare viaggi di lavoro in Cina fino alla fine di febbraio, ma il gruppo Fiat Chrysler gestisce due impianti di assemblaggio in Cina, uno a nord-ovest di Hong Kong, cioè a Guangzhou, e l'altro a Changsha, nel sud-ovest della regione del Wuhan, che abbiamo detto più volte è la Detroit cinese, è la patria della produzione automobilistica cinese, dove si è sviluppato il coronavirus. Gestisce la stessa Fiat anche altri impianti in Cina dove lavorano i suoi fornitori. Manley, quindi Mike Manley, due giorni fa aveva detto che se la situazione continua a peggiorare vi sarebbe potuto essere il rischio di dover fermare uno stabilimento in Europa nelle prossime 2-4 settimane, senza indicare quale degli 11 stabilimenti di auto e motori potrebbe sospendere la produzione. Ma la produzione in questo caso si ferma perché non arriva la componentistica dalla Cina, non per altro. C'è un team comunque che è stato incaricato di monitorare qualsiasi potenziale impatto sulla produzione. Allora andiamo alle notizie di carattere internazionale. Una buona notizia per l'economia americana e per Trump, al di là del no all'impeachment, arriva dall'economia. L'economia americana ha creato a gennaio 225.000 posti di lavoro, un dato ben oltre le previsioni che parlavano di 158.000, e questo giustamente Trump se lo userà nella campagna elettorale per dire io insomma ho creato maggior ricchezza negli Stati Uniti. Mentre, visto che accennavo al coronavirus, iniziano le agenzie di rating a fare le stime. Allora, Standard & Poor's sulla crescita cinese già prevede una crescita non superiore al 5% contro il 5,7% ipotizzato in precedenza. Attenzione, perché in Cina la soglia del 6% è quella che garantisce il passaggio, diciamo, dalle campagne alla città. Non è una soglia, per noi sarebbe una soglia, capito, da boom economico, e quindi c'è tutto un processo in corso in Cina, anche perché le centinaia di milioni di cinesi che abitano ancora nelle campagne iniziano a capire, tra virgolette, che il percorso di urbanizzazione che ha contraddistinto gli ultimi 15 anni di sviluppo cinese sta terminando, non può essere più garantito con quei tassi. Noi avevamo un tasso, adesso ricordo le cifre quando andavamo a trasmettere da Focus Economia dalla Cina, di 15 milioni di inurbati, cioè di persone che ogni anno si spostavano dalle campagne alle città, 15 milioni all'anno, cioè tu in 5 anni ti hai fatto praticamente la popolazione italiana, bambini e anziani inclusi. Tra l'altro la Cina ha ridotto del 15% la raffinazione di petrolio. Xi Jinping ha chiesto a Trump una risposta ragionevole all'emergenza scatenata dall'epidemia, perché c'è stata una telefonata questa mattina tra i due, e Trump ha detto di avere fiducia nella Cina e di essere fiducioso che la Cina metterà fine all'epidemia del coronavirus. Nel frattempo continuano le grandi catene a bloccare l'attività in Cina, anche Burberry ha chiuso 24 negozi su 64 in Cina, c'è un effetto negativo sulla domanda di lusso. L'Italia è pronta invece a riaprire alcuni voli, lo ha detto la portavoce del ministero degli esteri cinese Hua Chunjing in merito all'incontro che si è tenuto ieri tra il vice ministro Qin Gang e l'ambasciatore italiano Luca Ferrari. Però per ora restano chiusi i voli Italia-Cina, lo ha confermato anche il Ministero della Salute, perché l'ordinanza l'aveva firmata il Ministro Roberto Speranza, e la Farnesina ha definito infondata la riapertura dei voli, la notizia della riapertura dei voli verso la Cina. E il Ministro degli Esteri Di Maio ha detto: il blocco dei voli continuerà finché sarà opportuno. Spread fermo a 133 punti, 131, 132, 133 è la domanda, è l'andamento dello spread in questi giorni. Dicevamo dell'Istat, che oggi ha rilevato un calo della produttività del lavoro e ha segnalato sul settore industriale a livello globale un aumento dell'incertezza. Devo dire che ci arrivavamo anche da soli, visto questo che è successo con il coronavirus. Comunque sentiamo il direttore del Dipartimento per la Produzione Statistica dell'Istat, Roberto Monducci, al microfono della nostra Anna Marino. Dal punto di vista congiunturale, il PIL del quarto trimestre abbiamo visto che è scalato dello 0,3% in un contesto europeo che comunque è di difficoltà, perché l'area dell'euro è aumentata di pochissimo, dello 0,1%, e in Francia c'è stato un calo del PIL dello 0,1%. Noi valutiamo questo dato negativo del quarto trimestre come un dato caratterizzato anche alle dimensioni transitorie, temporanee, che hanno costruito un quadro negativo su tutti i settori: agricoltura, costruzione e manifattura, in una situazione anche di stagnazione dei servizi. Riteniamo però che anche a seguito di recenti informazioni qualitative sulle prospettive a breve del settore delle imprese, soprattutto il manifatturiero, ci possono essere dei segnali positivi sull'outlook, quindi sulla previsione a breve termine, anche sulla base di un aumento di fiducia dei consumatori. Ancora due notizie sempre sull'Italia e sull'economia italiana, le ho in parte anticipate perché l'Istat oggi ha diffuso anche il dato sull'andamento del commercio. Allora, ribadisco, perché molti mi stanno scrivendo al 349-238-6666, complessivamente è andato abbastanza bene, più 0,8%, però in questo caso una media di Trilussa aveva fatto il commercio più 0,1 nel 2018, il dato sul 2019. Perché dico media di Trilussa? Perché il grosso, scusatemi, se lei porta a casa la grande distribuzione più 1,4% e soprattutto il commercio elettronico più 18,4%, grazie anche ai Black Fridays e quant'altro. Invece i piccoli negozi fanno ancora un meno 0,7% al terzo anno consecutivo di calo. A dicembre, tra l'altro, è cresciuto molto poco l'alimentare, crescita zero per l'alimentare. Sentiamo sempre il direttore del Dipartimento della Produzione Statistica dell'Istat, Roberto Monducci, su questi dati, sempre al microfono della nostra Anna Marino. Il dato di dicembre è stato positivo, anche se abbiamo chiaramente molte divergenze per tipologie distributive e anche per settore merceologico. Comunque abbiamo un'evidenza positiva, questo è importante, perché dicembre è stato un mese in generale con problemi. Il commercio elettronico è un driver di crescita notevole, e una forte crescita c'è anche sui discount e anche la grande distribuzione. La piccola distribuzione presenta profili invece molto meno dinamici, e quindi questo è un elemento di criticità, di preoccupazione. La classifica della settimana. Dunque, iniziamo la classifica. Cercherò di tenere i toni bassi di un'ottava per via di queste costole inclinate, ma non so se ci riuscirò. Allora. E poi una sorpresa al primo posto della classifica. Comunque, partiamo bassi al quinto posto. Dunque, c'è a Tauria Nova, Italia, un poliambulatorio. Che è un poliambulatorio, un poliporto di mare. Guarda, la cosa incredibile L'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza sul poliambulatorio di Taurianova ha coinvolto 38 persone, praticamente la stragrande maggioranza dei dipendenti, 13 destinatari di una misura personale con l'obbligo di firma alla polizia giudiziaria, 25 indagati a piede libero. Di che cosa sono accusati? Sono accusati di aver alimentato con diversi gradi di responsabilità un vasto sistema di assenteismo all'interno degli uffici sanitari taurianovesi. Allora la prima domanda è: se 38 persone sono indagate, serve la SP di Taurianova o non serve? Perché se funziona uguale con tutti quelli che adesso vi sto per raccontare, evidentemente sono troppi, allora licenziateli direttamente. Se no, se non funzionava, licenziateli uguale. Comunque, allora, c'era chi andava a spasso, chi andava a giocare alle slot machine, chi andava a fare la spesa. Oh, ma con tutto sto crollo dei consumi, calo dei consumi, consumi stagnanti, nella classifica quando c'è l'assenteismo è sempre uno che va a fare la spesa. Dovremmo fare un monumento agli assenteisti, perché sono gli unici che tengono sui consumi in questo paese, mi sembra di capire. Comunque, assenteisti, ladri, perché poi sono ladri di stipendio, e chi invece si dava malato e se ne andava al mare. Appunto, dipendenti che entravano e uscivano a proprio piacimento, un controllo inesistente, tanto poi pagava lo Stato. Nella logica lo Stato può essere tranquillamente gabbato. Siamo arrivati alla seconda fase di questa inchiesta, in cui gli inquirenti sono stati in grado anche di fornire un quadro su come intendevano il lavoro molti dipendenti. È una cosa un po' strana. Allora, emblematiche, si legge nell'ordinanza, sono le conversazioni captate sull'utenza di Domenico Giuseppe Pedullà. Nel dialogo Pedullà parlava con la propria moglie del controllo effettuato dalla Guardia di Finanza, e quest'ultima lo richiamava invitandolo a non parlare al telefono, con le parole "non ti scassare la lingua", che è un modo come un altro per dire "guarda che ti potrebbero intercettare". Nel proseguo delle indagini gli inquirenti intercettano Pedullà che, secondo le celle telefoniche, si trova gioiosa ionica, ma contatta il suo medico di famiglia per chiedere un certificato che attestasse una malattia. Cioè, il dipendente aveva necessità di ottenere un certificato medico per starsene qualche giorno lontano dal lavoro, preferendo recarsi in spiaggia. A tal fine contattava lo studio del proprio medico di famiglia e ordinava alla segretaria il certificato da redigere. Bellissimo, pensa se funzionasse così anche con le mie costole. Uno può, chiama la segretaria, senta, scriva che io sto... Il problema è che non lavora nessuno, o non lavorava quasi nessuno, a Taurianova, perché la segretaria era un matrimonio, durante, anche qui, matrimoni durante la settimana lavorativa, per carità, possono capitare. Ma la segretaria dice: io sono al matrimonio, mi chiami domani, che tanto lo facciamo con la data di oggi, a sto punto anche dopo domani. Tutto testuale, tutto intercettato. Subito dopo, nel corso della conversazione con Luigi Scaramozzino, lo informava che stava per andare al mare. Il giorno dopo Pedullà ricontattava la segretaria dello studio medico, suggerendole di indicare come diagnosi l'ipertensione. Beh, te credo, uno va al mare mica perché è rilassato, perché è teso. Complimenti alla SP di Taurianova, dove evidentemente, ripeto, o se funzionava uguale non hai bisogno di 38 persone, o se non funziona a cosa serve, perché tanto a mandare al mare 38 persone... Dico, guardate che 25 indagati a piede libero sono da associarsi ai 13 destinatari dell'obbligo di firma, ma staremo a vedere. Dal quinto posto, io non posso purtroppo ridere perché mi fanno male le cose, lo dico non per farmi fatti, per dare informazioni private, è perché dovrò condurre in maniera un po' diversa, perché restiamo in tema di così, di malattie, e andiamo al quarto posto. Sì, qualcuno suggerisce gita premio a One per tutti i 38, ma in effetti una bella vacanzina a One, no, a vedere come si lavora, tutti, no, così tipo il bel certificato, sono a One, fammelo retrodatato, appunto, non è male come idea. Comunque, allora, miracolo non a Milano, no, miracolo a Roma, miracolo all'ATAC, siamo al quarto posto. Guardate, è palese che quello che è successo sulla linea Termini Centocelle fosse uno sciopero bianco. Il problema è che gli scioperi in questo paese, anche volendo dire che ci fossero rivendicazioni corrette, giuste da parte dei, sono regolati. Non è che siccome uno ha paura di perdere soldi in busta paga, ed è una paura legittima, e quindi è giusto che tu con le organizzazioni sindacali di base e non mi sembra che all'ATAC manchino i sindacalisti, i sindacati tratti con l'azienda. Altra cosa è fare uno sciopero bianco che a casa mia si chiama ricatto. Che cosa è successo? È successo che mercoledì scorso 37 macchinisti su 43 previsti dei turni, 5 erano a riposo, non si sono presentati al lavoro. La ferrovia praticamente è stata chiusa, i pendolari infuriati, hanno attivato i controlli, le verifiche fiscali, ma tutti gli ammutinati, avevano l'attestato in tasca, in 13 avevano il certificato medico, quasi tutti per l'influenza di stagione. Altri 15 avevano un referto del dottore in cui si parlava della malattia dei figli, altri 6 avevano sfruttato il congedo della legge 104, che però dovrebbe essere motivato per assistenza a parenti invalidi o malati. In 3 si erano assentati per la donazione del sangue. Risultato, praticamente la linea si chiude, perché 37 su 43 chi riconduce. La cosa incredibile, ecco perché parlo di miracolo a Roma, che il giorno dopo erano tutti guariti. Perché mercoledì il miglioramento è incredibile, altro che coronavirus. Quindi bisogna andare a studiare esattamente i virus dell'ATAC, l'ATAC virus. Avresti cose molto interessanti, perché il giorno dopo improvvisamente 30 risultano presenti, 12 erano assenti, però 6 in realtà erano di riposo programmato. Un prodigioso appunto miglioramento dovuto a un motivo solo, che l'azienda, la dico bene, andiamo. L'azienda l'ATAC ha garantito che i conducenti non avrebbero avuto una decurtazione di nessun euro in busta paga. La vicenda è un passaggio, diciamo, della società controllante. E quindi mercoledì mattina ha riaperto puntuale, 2 assenti su 3 sono tornati al lavoro. Non avrebbero nemmeno una multa perché erano muniti di certificato medico o donazione di sangue. L'autority sugli scioperi ha acceso un faro, ci mancherebbe, e convocherà sia l'ATAC sia i sindacati, perché non è possibile, all'interno del massimo rispetto, ripeto, nelle relazioni industriali e sindacali, che tu così decida, tac, e sappiamo tutto, il motivo, decida uno sciopero in bianco. E tra l'altro appunto c'è stata una garanzia di ATAC che non avrebbero perso un euro in busta paga nel nuovo passaggio, diciamo, organizzativo interno. Quindi complimenti al come si è debellato a Roma un virus, l'ATAC virus, che si è risolto praticamente in 24 ore. Io spero che però è vero che nessuno, che non rischiano nulla, ma almeno vediamo se arriverà una sanzione da parte dell'autorità degli scioperi che vuole intervenire. Vediamo se vi saranno anche risvolti penali. Il Codacons ha fatto sapere di voler presentare un esposto per interruzione di pubblico servizio, perché in tutta questa vicenda molto appassionante non gliene frega niente a nessuno delle centinaia di romani, delle migliaia di romani che devono utilizzare il servizio, ovviamente non nel termine 100 celle, di quello non frega una mazza a nessuno, dai. Il coronavirus, non male anche questa, adesso non voglio nessuna offesa, io poi sono nato a Roma, figuratevi. Però ragazzi, dai. Ma andiamo, no, il terzo posto devo riprendermi, perché lì le coste sono veramente a rischio, e lo lascio dopo il meteo e la pubblicità. Ogni tanto ci occupiamo del nostro esercito, massimo rispetto per tutti i militari, anzi grande ammirazione per tutti i nostri militari che sono impegnati nelle missioni all'estero, e che delle volte hanno sacrificato anche la vita, ahimè. Ci siamo occupati dell'aeronautica quando si suggerì di tagliare l'erba con le caprette in una stazione, in un aeroporto militare, però le caprette poi non mangiavano abbastanza, scagazzavano in giro, mi ricordo benissimo la vicenda. Ci siamo occupati degli alloggi, tema più serio, e di come vengono distribuiti gli alloggi militari. Oggi anche qui un nuovo passo, una nuova frontiera, un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per la nostra classifica. Dopo il meteo vi spiego perché. Focus Economia. Allora andiamo al terzo posto, devo stare tranquillo purtroppo. Dicevo, massimo rispetto per le forze armate, e però ogni tanto ci occupiamo anche di loro. Io immagino, anzi non ho motivi per dubitare se sia tutto legittimo, che sia tutto legittimo. Qui c'è un tema di opportunità. Allora, stiamo parlando del generale Ezio Vecciarelli. La notizia che sto per dare è stata riportata dai quotidiani, ma è smentita, quindi se dovessero essere smentite siamo pronti ad accoglierle. Allora, nominato capo di Stato Maggiore della Difesa nel novembre del 2018. Ora, qual è il problema? Nessuno, apparentemente. Il generale è vertice della difesa italiana dal 6 novembre del 2018. Poco dopo, una ditta di Rignano Flaminio, la AZ Service L, riceve l'incarico di realizzare un alloggio di servizio per il comandante, per il suo cane. Ora, un alloggio sobrio, come si conviene allo stile militare, senza troppi fronzoli, così da non dare troppo nell'occhio. Un po' di riservatezza, insomma, l'ordine per costruire l'alloggio di servizio del cane del generale Ezio Vecchiarelli viene fatto secondo le regole del buon governo, nel senso non c'è nulla di illegale, o meglio, viene fatto attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione a trattativa privata. Spesa totale 4.250 euro oltre il 22% di IVA, quindi siamo sopra intorno ai 5.000 euro. Non è tanto l'ammontare, io però voglio capire, ma in quale esercito al mondo uno si fa costruire alloggio per il cane? A parte che il cane lo tieni a casa, non ho capito bene come mai il cane sia sempre con... Dunque, la cosa curiosa è Vecciarelli, sì. La cosa curiosa è che la descrizione della commessa non dice espressamente alloggio per il cane del capo di Stato Maggiore della Difesa, anche perché poi se tu inverti le parole devi stare attento. Allora, dice nuova recinzione nell'area limitata presso il cortile numero 3 di Palazzo Difesa. Ora, una nuova recinzione a cosa serve? Beh, di solito con la difesa servirà per evitare gli assalti, gli attacchi, gli attentati, il terrorismo, la nuova recinzione, cosa immagine debba fare la nuova recinzione? Non certo rinchiudere i prigionieri, non siamo in guerra con nessuno. No, la nuova recinzione serve al cane del comandante, del capo di Stato Maggiore della difesa e che vuole stare tranquillo. 5.000 euro. Non ho conoscenze, non sono abbastanza esperto nei costi delle cucce per i cani, degli alloggi per i cani e neanche per i gatti. Spero che insomma il cane sia di taglia piccola, perché sennò costava anche di più. Ma l'opportunità, vogliamo parlarne, l'opportunità, anche perché al capo di Stato Maggiore della Difesa viene assegnato un alloggio cosiddetto ASIR, alloggio di servizio di rappresentanza. Ce ne sono 6 sopravvissuti al taglio dei 55 lussuosi alloggi che venivano assegnati fino a pochi anni fa da alcuni generali. Quindi hai un alloggio di rappresentanza lussuoso, uno dei 6 rimasti. Voglio dire, comandante, che dobbiamo fare? Pagare anche il dog sitter? Non so, qualcuno lo porta in giro? Qualcuno mi sta scrivendo, serviva a controllare le capre, no? Ma le capre stavano a Taranto, nella base dell'aeronautica militare. Barisoni è una recinzione, non è una cuccia. Lei è così sicuro? Ma perché devo fare la recinzione? Ma fosse anche solo una recinzione perché il cane dorme. Ma perché ho bisogno di una recinzione per il cane nel lotto? Cavolo, è sto lotto. Volevo trovare il lotto dove. Eccolo qua. Il cortile numero 3 di Palazzo Difesa. Perché? E se per caso il prossimo capo di Stato Maggiore ha amore per altri animali più grossi, cosa facciamo? Allorghiamo la recinzione? Ma per favore, qui non è, ripeto, sono 5.000 euro, ma tu sei capo di Stato Maggiore della Difesa, su, ma per favore, il cane, la recinzione, la prego, Ezio Vecciarelli, se tutto questo dovesse essere stato non correttamente riportato dalla stampa, ci scriva, gliela diamo la smentita, perché non ci volevo credere, era anche indeciso, ma dai, non è possibile che di questi tempi, con i controlli che vengono fatti, tu ti metti a spendere 5.000 euro per le recinzioni perché devi farci stare il cane lì. Ma qualcuno che te lo tiene, sto cane non c'è. Allora, no, per favore, non voglio battute su questo perché. Non voglio battute su questo. Andiamo al secondo posto. Oh, e qui c'è poco da ridere, c'è solo da. Ma veramente l'appello ogni tanto, ma non è mandarli a Wuhan, poveretti, quelli c'hanno già altri problemi, perché dobbiamo mandargli i nostri corrotti in Cina? No, è mandarli a fare i lavori importantissimi e anche poco retribuiti a titolo volontario. Qui apriamo la rubrica dei lavori socialmente utili, dati a persone che hanno rubato soldi in maniera anche indegna, soldi pubblici. Pigliate questo caso, perché io non so, ripeto, non voglio alzare troppo il livello dei decibel perché mi fa male, ma insomma hanno beccato due personaggi: il deputato regionale in Sicilia Tony Rizzotto, 67 anni, parlamentare del gruppo Ora Sicilia, che aggiungo io, che è Rizzotto. Meno male che la scorsa estate aveva aderito al gruppo parlamentare dell'Assemblea regionale siciliana Ora Sicilia, costituito da Luigi Genovese, e adesso ci arriviamo. Poche ore dopo il commissario regionale leghista Stefano Candiani lo aveva espulso dal partito per incompatibilità. Ok, e infatti c'era molta insofferenza dei leghisti siciliani nei confronti di Tony Rizzotto. Allora, Tony Rizzotto assieme ad Alessandro Giammona, e qui il Veneto potrebbe accorrere in aiuto, ma questo è Alessandro Giammona, consulente dell'ente di formazione is.for.d.d. Allora, l'accusa di peculato, e fin qua tu dici, perché avrebbero sottratto somme di denaro dalla cassa. Ecco, la cosa che mi fa, di peculato è sempre peculato. Poi c'è del peculato che mi dà ancora più sui nervi, ed è quando in un paese come la Sicilia, dove abbiamo raccontato negli anni scorsi, una regione come la Sicilia, dove abbiamo raccontato negli anni scorsi i problemi dei disabili siciliani che non ricevevano e si andavano a incatenare, non ricevevano i soldi per il pulmino, di tutto abbiamo raccontato. Pensate questi due soggetti di cosa sono accusati. Allora, di avere sottratto somme di denaro dalle casse dell'Istituto Formativo per Disabili e Disadattati Sociali, che li aveva percepite dalla regione siciliana, cioè la regione siciliana dava i soldi, il provvedimento è del GIP del Tribunale di Palermo, eseguito dalla Guardia di Finanza. Le indagini sono scaturite dalle denunce del 2017 da diversi ex dipendenti dell'ente di formazione, nelle quali venivano segnalate irregolarità nella gestione delle somme che dovevano essere impegnate per le finalità istituzionali e per organizzare i corsi di formazione a favore di categorie tutelate per l'inserimento nel mondo del lavoro. Il nostro Gianluca Nicoletti sta facendo un lavoro egregio, per esempio, su quello che è il mondo dell'autismo. Sono delle persone già che hanno avuto delle sfortune alla nascita, devono avere pure la sfiga di beccarsi due, secondo l'accusa, banditi, come Tony Rizzotto, secondo l'accusa, bandito, come Alessandro Giammona, sempre secondo l'accusa. Così quando mi querelerete vi ricorderete che ho detto secondo l'accusa, no? Perché dalla Sicilia mi sono arrivata una marea di querele in questo periodo. Bene, secondo l'accusa siete due banditi, tra l'altro anche senza cuore, perché andate a toccare i soldi. Ma rubate i soldi a qualche boss mafioso se avete il coraggio. Allora andiamo avanti, dai. Allora, il presidente dell'ente Tony Rizzotto avrebbe ricevuto dal dicembre 2012 all'agosto 2016, senza averne titolo, la somma di 32.500 euro tramite bonifici bancari e assegni tratti sui conti correnti dell'IS4DD, l'istituto. Mentre il responsabile esterno operazioni Alessandro Giammona, potendo utilizzare le credenziali di accesso ai conti correnti dell'istituto di formazione forniti da Rizzotto, si era autoliquidato somme per un totale di 456.000 euro negli anni 2013-2017, finalizzate a compensare le prestazioni in assenza di qualunque rapporto lavorativo formalizzato con l'ente che dal 2012 al 2015 ha ricevuto finanziamenti pubblici per 1,5 milioni di euro. Quindi i due Robin Hood al contrario, Tony Rizzotto e Alessandro Giammona, hanno, secondo l'accusa, preso 500.000 di euro in 3 anni, cioè un terzo di tutto quello che era stato destinato. La gestione dei fondi pubblici era già stato dell'Isford, era già stato oggetto negli anni successivi di rilievi da parte dell'assessorato regionale a seguito di gravi e evidenti irregolarità contabili, e aveva avviato le procedure di revoca dei finanziamenti. Ora io chiedo, ma non voglio fare del giustizialismo facile, non me ne frega nulla, siccome non credo che sia giusto mandare in carcere queste due persone perché c'è un costo per la collettività e non c'è un pericolo di reiterazione del reato se tu li metti. Allora, chiedo agli ascoltatori di suggerirmi quali lavori socialmente utili io un paio di idee ce l'avrei allo Spallanzani, ma non adesso, vediamo così, un paio di deucce, vediamo se funziona il vaccino, tac, mandiamoli già mona. No, ma al di là di questo, cioè, che tipo di sequestro della somma, per carità, ma siccome c'è stato un danno già creato, non basta sequestrare la somma, qualcuno mi dia qualche idea su cosa, diciamo, se si vuole presentare una riforma seria della giustizia, pene alternative al carcere che sono già sovraffollate, siamo qua ad accettare. Allora andiamo, non andiamo al primo posto, andiamo al traffico e poi andiamo al primo posto. Focus Economia. Allora, nel frattempo mi sta arrivando anche alcuni messaggi sul cane del, sul recinto per il cane del capo di stato maggiore della difesa, un cane da difesa, va bene. No, ma c'è qualcuno che non capisco, sa che non capisco. Mi scrive: la recinzione del cane serve perché il cane non scappi, altrimenti cosa vorrebbe, che restasse sempre chiuso in casa? Lo sa che un cane è come un figlio. Lei si indigna quando un prefetto vieta ai mocciosi di fare rumore e viene a dire che il cane non lo può dare a qualcun altro, si vergogni. Ma guardi, a parte che lei si riferisce a una vicenda su cui è intervenuto anche il sindaco Orlando, ho solo detto che in un paese normale un giudice non può dare un'ordinanza in cui i bambini non giocano più a calcio, o l'oratorio deve spendere 20.000 euro in una zona abbastanza critica di Palermo, si cerchi un'altra soluzione. Ma sai che non capisco? Io, a parte che la recinzione serve perché il cane non scappi, ma perché devi portarlo al lavoro il cane? Diciamo, facciamo passare l'idea che per alcuni il cane possa essere come un figlio. Vabbè, ma io mio figlio mica lo porto al lavoro, anche perché sennò dovrei creare dei box per i bambini quando sono piccoli, per carità, potrebbe essere una soluzione. Ma poi l'ultimo aspetto è che, ammesso non concesso che uno possa portarsi il cane al lavoro e andargli in recinzione, ma perché dobbiamo pagare noi la recinzione del cane? 5.000 euro con un bando, non ho mica l'avrei messa in classifica la notizia se il capo di stato maggiore con i suoi soldi si fosse portato la cuccia, la recinzione, e l'osso di plastica e quel cavolo che volete voi. Ma che sta scherzando? Tanta gente qua. Va bene, andiamo al primo posto. Sì, sto vedendo pene alternative al carcere per i due, dovessero essere confermate le accuse mosse dal GIP e dalla Guardia di Finanza. Sì, guardate, andare a fare le pulizie e dare una mano ai disabili nella zona, sono d'accordissimo, ma ancora un po' di più. Allora andiamo al un doppio primo posto in classifica. And the winner is questo paese, nel senso che, alla luce di quello che abbiamo raccontato, mezzo milione rubato in 3 anni su 1,5 milioni di fondi ai disabili, alla luce di quello che vi sto per dire, dove due persone a Siracusa, compreso un neurologo della SP, sono agli arresti domiciliari, poi ci sono 2 obblighi di dimora, ci sono 73 indagati, di cui 17 dottori a Siracusa, 7 misure cautelari per i medici, ASP e INPS, ripeto, 2 obblighi di dimora, 7 divieti di esercitare la professione di medico, anche 2 dell'INPS, 73 indagati, appunto, beni sequestrati per 600.000 euro. Questa si chiama operazione Ippocrate, povero Ippocrate l'hanno chiamata la Guardia di Finanza, povero Ippocrate e povera patria, aggiungerei io. La procura di Siracusa, anzi erano i carabinieri, scusatemi, i medici redigevano falsi certificati per pensione di invalidità e per l'accompagnamento. Pazienti che venivano sedati per apparire malati, venivano reclutati finti parenti, false badanti, ma c'è di tutto, ma sembra un gran gugnol, falsi esami diagnostici strumentali, come referti di TAC e di Eco Doppler, ci sono le riprese video dei carabinieri in cui vengono mostrati passaggi di denaro in favore dei medici corrotti, un sistema che serviva anche all'appoggio di alcuni patronati, utilizzava anche l'appoggio di alcuni patronati, il falso invalido veniva istruito sul comportamento da tenere durante la visita di accertamento davanti alla commissione dell'INPS, al candidato alla pensione era spiegato come simulare determinati sintomi, gli venivano consegnati referti falsificati, i finti parenti, le false badanti servivano a descrivere, a confermare la presenza, si sta molto male, sta malissimo, ma no, pazzi, ha messo su un circo, ma lavorare mai? No, aspetta. E a descrivere, a confermare la presenza assidua dei sintomi simulati dal candidato, una roba, capito, da teatro dell'assurdo. Ecco, il paese è questo, con questi medici che ci sono i filmati, io sapete cosa farei? Sospenderei tutti i soldi di questi medici e tutti i soldi dei medici o dei falsi invalidi e di tutti i corrotti che abbiamo beccato e raccontato in questi anni, e li darei a chi? Perché a me una cosa che sta sulle palle è l'ipocrisia. Sono tutti a lodare, e ci mancherebbe, Francesca Colavita, la ricercatrice dello Spallanzani che ha isolato il coronavirus, e assieme a lei anche la direttrice del laboratorio Maria Capobianchi e la ricercatrice Concetta Castilletti. Ora, tutti a lodare la Colavita, una ricercatrice che vive con 1.500 euro a 30 anni, di origine molisana, e sono tutte del sud, le bravissime colleghe Concetta Castilletti e Maria Rosaria Capobianchi, tutti a dire che bravi, vedete che funziona, tutti i ministri, la carrellata dei politici, sono contento per tutti. Lo dico al governo, ministro Speranza, presidente Conte, siete andati allo Spallanzani, siamo orgogliosi dello Spallanzani. Allora, regolarizzate la Colavita, utilizzate i soldi di questa inchiesta di cavolo che stiamo raccontando da anni, di medici corrotti che fanno falsi certificati, licenziateli, prendete i soldi, facciamo il fondo medici corrotti, il fondo finti invalidi, il fondo ladri di sussidi agli invalidi e a chi ha le disabilità, e dateglielo a loro. Sapete perché? Perché va bene che l'assessore della sanità ha detto con la vita sarà stabilizzata, ma sono 3.500 in questo paese ricercatori precari che lavorano contro contratti di co-co-co, borse di studio, partite IVA, con un'anzianità media di 10 anni. Ecco il paese che vorremmo, dopo aver raccontato il paese che non vorremmo. Un applauso a Francesca Colavita e anche a Concetta Castilletti, ovviamente Maria Rosaria Capobianchi. No, perché capite, quando poi la Colavita va a chiedere un mutuo, la banca dice che contratto è da 10 anni che sono co-co-co, e sa cosa c'è. Mentre quegli altri, già hanno il lavoro a tempo fisso, vanno in vacanza, vanno a mare, fanno falsi certificati, si fanno chiamare pure medici, capisci? Pure medici si fanno chiamare. E sono 3.500 ricercatori solo perché lavorano quelli, diciamo, nei 10 istituti zooprofilattici, sperimentali, e nelle loro 90 sezioni. Ripeto, anzianità media di 10 anni con punte che arrivano a 20, eh? Medici, veterinari, biologi, ingegneri, fisico-chimici, agronomi. Loro sì. Si può trovare un modo per travasare i soldi che becchiamo da questa inchiesta e darli a loro? Ogni medico finto che firma certificati falsi, che viene licenziato, assumiamo un ricercatore, non so, troppo semplice forse. Vediamo se li licenziano intanto, eh? Vediamo se li licenziano. Ah, avevo promesso che mi sei arrabbiato per le costole, adesso prendo un respiro, si fa per dire. C'è GR24, poi andiamo col caso virtuoso e con le altre due notizie della giornata. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Mi riferisco a chi dice: il mio era un appello contro l'ipocrisia, le sfilate per la ricercatrice che da 10 anni che sta col co-co-co. GR24. Scali augura a tutti una buona connessione. A chi twitta, a chi social, a chi fibra, a chi giga, a chi carica, a chi scarica, a chi cerca, a chi YouTube, a chi Spotify, a chi ce la fa, a chi vive online, a chi si sente on life. Con Tiscali hai la fibra fino a 1 giga a soli 26,95 euro al mese, senza vincoli, con modem super wifi e attivazione veloce gratis. Offerta soggetta a limiti geografici e tecnologici. Vai su tiscali.it, chiama il 130 o visita i negozi Tiscali. Tiscali, on life. Colesterolo? Prova Colesterolact. Colesterolact contribuisce a mantenere livelli normali di colesterolo nel sangue. Colesterolact, 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Acquistalo in farmacia e parafarmacia. Una pecorella, due pecorelle, tre pecorelle. Difficoltà 21. Nel prendere sonno? Stress? Smetti di contare le pecore. Conta su melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Allora, la figura che cerchiamo tiene l'azienda sempre in carreggiata. Sa quando fermarsi se ha un ostacolo davanti e sa leggere i segnali che si trova di fronte. Pensa di farcela? Ford Focus con frenata automatica, mantenimento corsia e riconoscimento segnali stradali. A 295 euro al mese, IVA esclusa, con anticipo zero. E in più assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria incluse. Il noleggio Ford All Inclusive ha tutto di serie. Ed è per tutti, privati, aziende e partite IVA. Andrea. Supremo. Allora domenica finisce tutto. Devo preoccuparmi. In poltrone sofà finisce proprio tutto. I doppi saldi, i doppi risparmi terminano domenica 9 febbraio alle 22. Signori e signore, poltrone sofà, autentica qualità. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Non posso rispondere ai molti messaggi che arrivano come sempre sulla classifica, sulla differenza tra quanto viene pagata e il tipo di contratto che hanno i ricercatori, la ricercatrice dello Spallanzani, Francesca Colavita, che ha isolato il virus, e questi finti medici. Diciamo, Ippocrate per loro è un giocatore di qualche squadra di calcio, il giuramento di Ippocrate è una cosa che non ha mai sentito in vita loro, dai. Mi riferisco all'inchiesta chiaramente a Siracusa, no? Era Siracusa. Oh, poi c'è sempre il genio. Aia, ste cose. Barisoni gay. Ma guardi che non è un'offesa, ma cambi offesa, ma perché? Perché deve essere un'offesa? Mamma mia, che proprio sembra essere a scuola, lei ancora va a scrivere sui bagni. Sui muri dei bagni, guarda che non si può scrivere sui muri dei bagni, stia attento, torni in classe che le conviene. Allora, Jacopo Secco, 31 anni, cofondatore di Omnidermal Biomedics, buonasera. Buonasera, buonasera a lei, molto piacere. Senta, Secco, quanti anni ha? L'ho già detto io, quindi le evito una domanda. Che cosa fa Omnidermal Biomedics? Che cosa faceva lei prima? Chi vi ha aiutato? Quanti siete? Quanto fatturate? Un fiorino. Allora, Omnidermal Biomedics è una società torinese nata dal Politecnico di Torino. Quello che facciamo è sviluppiamo dispositivi biomedicali alimentati da algoritmi di intelligenza artificiale per la cura e il monitoraggio di ulcere cutanee. Quindi, in altre parole, sviluppiamo e distribuiamo dei dispositivi che sono connessi alla rete, quindi telemedicali, tali per cui possano dare delle misure e delle indicazioni diagnostiche oggettive delle ferite cutanee ad ausilio dei medici, degli infermieri e degli operatori sociosanitari che seguono questi pazienti sia in ambulatorio che sul territorio. Dunque, lei cosa faceva prima? Io prima di... Perché, insomma, è giovane, prima, 31 anni. Allora, prima... Facevo il ricercatore presso il Politecnico di Torino, ho fatto un dottorato di ricerca lì dove ho conosciuto e dove ci è venuta l'idea a me e agli altri miei due soci fondatori, Marco Farina e Alberto Berti, che facevano anche loro ricercatori sempre presso il Politecnico. E poi dopodiché ho fatto un'esperienza aziendale presso Humanitas a Rossano, mi occupavo di controllo di gestione. Nel frattempo sviluppavamo le notti Omnidermal, l'Unziware, che è il nostro prodotto, e siamo arrivati poi a ottenere un finanziamento da un investitore, il signor Franco Serventi, che ha creduto in noi, ha creduto nella nostra idea, e da gennaio 2019 siamo diventati una società a sé stante. Senta, da un punto di vista economico, cioè non sono un esperto di medicina, ma qual è l'elemento in più? Perché voi attraverso un algoritmo appunto di intelligenza artificiale riuscite a processare le immagini di ulcere cutanee, se ho ben capito. Esatto. Ma qual è rispetto alle tecniche attuali la novità? Allora, rispetto alle tecniche attuali è dato dal fatto che la misura è oggettiva, quindi cosa succede? Se questa misura è oggettiva, noi si riesce a dare un'indicazione chiara al medico dello stato del paziente dell'ulcera. Questo come si ripercuote da un punto di vista economico? Si ripercuote nell'ottimizzazione del trattamento. Basti pensare che solo in Italia la spesa sanitaria per le ulcere cutanee si sta parlando di circa 1 miliardo di euro l'anno, e noi abbiamo riscontrato che in moltissimi casi la gran parte di questa spesa è data dal fatto che i pazienti vengono seguiti in maniera non corretta, ma in maniera non ottimizzata, cioè non si riesce a fare un trattamento ad hoc per il paziente. E quindi questo cosa porta? Porta a un esborso denaro per le medicazioni o comunque per la gestione del trattamento da parte delle strutture sanitarie, sia pubbliche che private, molto, molto alto. Tramite un sistema telemedicale noi riusciamo a dare un'indicazione della situazione del singolo paziente, facendo sì che essenzialmente possa essere trattato come meglio conviene per quel paziente lì. Faccio un esempio: ci sono dei pazienti che magari vengono medicati 3 volte alla settimana, quando in realtà ne basta una volta. Ok, oppure... quindi da lì che si ha il calo poi dei costi intorno a un quarto, al 25% esatto, della spesa sostenuta. Ultima domanda: chi vi ha aiutato economicamente e quanto fatturate? Quanti siete? Ci ha aiutato economicamente il nostro investitore Franco Serventi, che è un investitore di Parma, che è un imprenditore di esperienza e che ha creduto nel nostro progetto. L'abbiamo conosciuto tramite una conoscenza in comune e ha deciso di credere in noi e di credere nel progetto. Fatturato, siamo in una situazione pre-market, cioè stiamo entrando in questo momento sul mercato, stiamo lavorando per poter distribuire almeno un centinaio di dispositivi entro il 2020 in Italia, per poi andare verso un'espansione sia italiana che a livello europeo e anche globale. Scorsa settimana, per esempio, eravamo ad Arab Health a Dubai, una delle maggiori fiere biomedicali, per andare a capire come poter entrare nel mercato medio orientale, per esempio. Allora, quanti siete? Siete 6, giusto, ancora? Sì, allora, noi siamo i tre soci fondatori, che siamo io, Alberto Berti e Marco Farina, l'investitore Franco Serventi, e c'è il nostro... quella conoscenza in comune che ci ha messo assieme, che ha unito noi fondatori con Franco Serventi, Filippo Begarani, che è diventato il nostro amministratore, e poi abbiamo un commerciale di esperienza che ci aiuta appunto nello sviluppo commerciale, Andrea Consonni, e poi collaboriamo strettamente col gruppo di ricerca del professor Fernando Corinto del Politecnico di Torino, con un gruppo di 3 ricercatori che sono Francesco Marrone, Gianluca Zoppa da Palamà, che ci aiutano proprio non solo nello sviluppo del prodotto, ma nello sviluppo della ricerca e sviluppo, quindi andare proprio a creare nuove tecnologie. Tra l'altro io ricordo, perché lo seguiamo ogni anno, che voi avete vinto nel 2018 anche una delle categorie del premio Leonardo, quindi complimenti. Grazie. Nella speranza che assumiate altri collaboratori, oltre appunto ai 6 che siete. Complimenti a lei, in bocca al lupo anche per la giovane età. Grazie a Jacopo Secco, appunto cofondatore di Omnidermal Biomedics. Allora, la base down sta a indicare e anticipare il prossimo tema. I dati diffusi oggi dalla produzione industriale tedesca, che ha fatto un calo, ha preso una botta, diciamo così, non solo a dicembre su novembre, meno 3,5%, ma dicembre sul 2018, meno 7%. Abbiamo detto in apertura, c'è poco da rallegrarsi, qui non c'è nessun mal comune mezzo gaudio, c'è solo mal comune e mal comune. Perché noi siamo i primi fornitori della meccanica e molte componenti della Germania. Se frena la produzione industriale tedesca, rischia, anzi c'è una grossa certezza che rallenti anche la nostra di produzione industriale. La cosa che mi ha impressionato di più è che è andato malissimo il settore delle costruzioni, meno 8,7%, nonostante le promesse, se ricordo bene, di Angela Merkel di iniziare anche con un piano di investimenti nel paese. Molti glielo chiedono, i conti tedeschi sono molto sani, anche forse troppo sani, il zero deficit è stato raggiunto, c'è un grande avanzo nella bilancia commerciale, il tutto mentre appunto si stima un dato in calo sull'economia italiana ed europea, e si sta ancora facendo il calcolo del tutto provvisorio di quello che potrebbe essere l'effetto del coronavirus. Parliamo dei dati di oggi dopo il traffico. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Dicevamo, Germania che prende una botta d'arresto anche in un 2019 che invece ha visto comunque crescere il commercio tedesco, l'export tedesco, però attenzione, anche qui più 0,6% l'export, quindi più 0,8, ha toccato un nuovo record, 1.327 miliardi di euro, ma rispetto all'andamento del 2018 più 3% ha fatto più 0,8%. Ripeto anche qua, non è tanto il problema di occuparsi della Germania tout court, è che noi è il nostro primo partner commerciale. Professor Franco Bruni, vicepresidente dell'ISPI, nonché docente di economia monetaria internazionale all'Università Bocconi di Milano, buonasera. Buonasera. Allora Bruni, il dato mi sembra abbastanza chiaro, però se lo vuole commentare anche lei, si figuri. Quello che vorrei capire, ma non doveva esserci nel nuovo governo Merkel anche una maggiore attenzione agli investimenti? Perché molti fanno notare che la Germania avrebbe bisogno di investimenti pubblici, infrastrutturali, ma non solo, perché la cosa che ha fatto frenare di più assieme all'automotive, che ormai sappiamo essere l'elemento critico perché in fase di rivoluzione completa, è stato il settore delle costruzioni. Cioè, siamo tutti in attesa che prima o poi i tedeschi si rendano conto che questo, cioè se ne sono resi conto anche ufficialmente, ma ancora non è successo, che spendano di più nelle cose infrastrutturali di cui c'è molto bisogno, e quindi anche nell'edilizia, insomma, poi nella ci sono altri problemi. C'è stata la grandissima incertezza dovuta anche a Brexit, che per i tedeschi è importante. Non possiamo dire in questo caso che c'entri molto la Cina, ma un po' sì, perché nella prima parte dell'anno soprattutto c'è stato un problema. Naturalmente non c'entra il coronavirus ancora, ma questo è in un certo senso più grave, perché adesso se arriva un blocco del coronavirus su questa situazione può essere particolarmente grave. E su questo volevo arrivare, perché sul coronavirus noi abbiamo visto, allora, intanto anche la Fiat preoccuparsi moltissimo, rischia di dover bloccare uno degli 11 stabilimenti in Europa perché stanno mancando le componenti dalla Cina. Certo. Anche qui attenzione, qualcuno mi dice ma non hanno mica bloccato le merci. Abbiamo spiegato due giorni fa con il presidente dell'ANFIA nonché del gruppo Adler, che ha molti stabilimenti anche in Cina, che il problema non è il blocco delle merci, è che se i lavoratori non possono andare a lavorare nel carico delle merci nei porti perché sono bloccati, oppure ce ne sono molti meno perché altri sono bloccati, altri non sono stati fatti rientrare dalle vacanze, sono ancora in vacanza, tutto questo porta a un rallentamento enorme. Quindi non è un blocco delle merci come i blocchi aerei, perché la merce non porta il coronavirus, ma se non hai gli operai e i lavoratori portuali che caricano queste merci, le merci non partono. Toyota oggi ha annunciato, a proposito di automobili, un posticipo di tutte la riapertura di tutti gli impianti che ha in Cina, e il mondo dell'automotive è molto preoccupato perché è uno di quelli maggiormente, diciamo, integrati. La domanda però è questa, Bruni: non è che a questo punto, tra il dato di oggi sulla produzione industriale, un dato pesante, e quello che potrebbe arrivare dalla Cina, fino a meno un effetto positivo, per così dire, del coronavirus, potrebbe essere far cambiare idea alla Germania? La Germania ha sempre avuto una crescita in questi anni molto legata alla Cina e quasi tutta legata all'export, per cui se ne fregava, lo dico male, per capire, dei consumi interni europei. Da lì il rigore sul patto di stabilità, da lì i paesi che devono sistemare i conti, chi se ne frega se distruggi il potere d'acquisto e quant'altro. Non è che adesso visti i rischi dell'export, il calo complessivo, i rischi anche di una guerra di dazi tra Stati Uniti e Europa, forse anche i tedeschi si convinceranno che bisogna mettere più attenzione al mercato unico europeo? La convinzione c'è in molti documenti interni, nel dibattito. Bisogna che scatti qualcosa politicamente. Può darsi che effettivamente la drammaticità del mondo produca questo risultato. Io quello che temo però è che siamo un po' tutti nei guai a nostro modo, e alla fine i guai si ripercuotono in modo complesso fra un paese e l'altro. E ho molta paura che la Cina, con questa storia anche del coronavirus, cominci a chiudersi sul serio, anche da un punto di vista delle catene del valore. Quello sarebbe veramente un grosso colpo strutturale per la Germania, ma non solo per la Germania. Se loro cominciano a farsi in casa e le cose che fanno fare ai tedeschi, e sempre di più, e a farsi in casa quelle che fanno fare nel sud-est asiatico, eccetera, e un chiudersi aiutati anche dalle tariffe, dall'incertezza con Trump, e allora per il mondo è un motore quello cinese che rischia di essere, e un po' tutti rischiamo anche di far così, cioè se il mondo non si rimette a lavorare insieme e se quest'idea di fare ognuno per conto suo non cessa, ci sarà anche nella microeconomia, anche da parte degli industriali, anche da parte degli investitori, proprio un atteggiamento che nel giro di qualche anno ci può portare a bloccare la globalizzazione in modo deprimente. Beh, però a questo punto la risposta europea potrebbe essere un maggior ricorso al mercato interno, no? E lì voglio essere chiaro, maggiore unità. Ma mercato interno vuol dire investimenti, cioè golden rule, green rule, non me ne frega nulla, insomma come la vogliono chiamare, però far capire a tutti, tedeschi, olandesi in primis, che forse bisogna porre più attenzione ai consumi interni, cioè se ti vengono a mancare i consumi internazionali. Sì, ci vuole questo, ma se noi dessimo l'idea anche che il nostro commissario per il commercio è veramente al comando della situazione, non c'è questo continuo stillicidio di tentativo di portare via potere a Bruxelles. Se questo signore potesse girare il mondo con un'autorevolezza molto maggiore, signora, sarebbe diverso. Quindi dobbiamo, così come adesso dobbiamo stare attenti con Brexit, cioè dobbiamo dare l'idea che siamo insieme su tutte questi grossi problemi del mondo. Questo potrebbe aiutarci anche ad attirare investimenti, anche dall'estero, insomma. Quindi, sì, ritengo, come dicevamo due giorni fa con Antonio Paolo Salimbeni, visto che si è avviata a Bruxelles un tavolo di lavoro per riformare il patto di stabilità, che questo però, professor Bruni, debba anche passare per una riforma di quelli che sono gli investimenti possibili, cioè se noi non entriamo nella logica che devi scorporare parte degli investimenti dal calcolo del deficit, appunto, che siano gli investimenti ambientali, la chiami green rule, che siano gli investimenti infrastrutturali, la chiami golden rule, tanto non ne usciamo. Assolutamente sì. Se poi smettiamo anche di mettere invece soldi nella Popolare di Bari, a Genova, nell'Italia, allora saremo ancora più credibili quando chiederemo di poter fare più investimenti. Sì, è vero che anche i tedeschi li hanno messi nelle loro banche, 174 miliardi. Certo, però certamente. Ma lei la vede questa prospettiva o deve arrivare un altro shock? Perché qua io ho il timore che Trump... appena placata la tensione mondiale sul coronavirus, torni a guardare all'Europa e dire adesso iniziamo a ragionare anche con voi di dazi oppure... Guarda, io sto per partire per Lussemburgo, dove abbiamo la riunione sul meccanismo europeo di stabilità, che anche quello è in via di riforma, ma si continua a rimandare perché la Francia vuole una sua cosa, perché noi abbiamo quella gente che mette gli striscioni sul MES al Parlamento, e quello è un altro elemento importante, perché senza un MES robusto noi abbiamo una struttura finanziaria molto fragile che rischia di non riuscire a fare da polmone alla crescita vera dell'Europa. Quindi certo ci sono tante cose che bollono in pentola, e poi questa nuova commissione che è appena stata avviata sta cercando di farsi una reputazione, quindi sta tutti i giorni c'è qualcosa di nuovo, qualche programma nuovo, ma poi ci vuole la volontà politica dei paesi di fare veramente le cose insieme. Allora, lo dico, però non voglio essere frainteso, il coronavirus è un problema in primo luogo sanitario e sulla vita delle persone, però delle volte proprio dagli shock esterni possono nascere anche apprendimenti in una economia europea che, ripeto, per via della tendenza di alcuni paesi in questi anni si è solo raccontata come grande esportatrice di beni, di meccanica, di lusso e quant'altro, dimenticandosi poi del destino, con conseguenze anche politiche, ma questo ci potrebbe troppo in là, dei popoli e delle persone che vivono in questa area euro, che non può essere solo, diciamo, la vendita di benissimo, benissimo l'export, siamo tutti contenti dell'export, però attenzione, i consumi interni non possono essere tralasciati in questo modo. Grazie anche al professor Franco Bruno, avevo promesso un approfondimento sulla parte invece le preoccupazioni di tutta la filiera dell'automotive per via dei blocchi cinesi, lo facciamo lunedì. Da parte mia un ringraziamento come sempre a Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione, in studio, un augurio a voi di un buon fine settimana, soprattutto per chi dovrà trascorrerlo lavorando. Ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.